Dimmi perché io quando piove forte non mi calmo. Sei mi ricorda Genova quell'anno che abbiamo fatto gli angeli del fango, lì nel fango, e che ne sanno gli altri che ti guardano, non ti guardano come ti guardo io. Anche se ti mancano, non ti mancano come ti manco io. Che non sono gli altri, sappiamo entrambi che c'è un filo rosso che ci unisce, che non si vede, si capisce. Questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19. E giuro non ne posso più di fare a meno di te. E passare da fare tutto a un tutto da rifare. Ma guardaci adesso che cosa siamo diventati, da sconosciuti innamorati, poi da innamorati a sconosciuti. Tipo passi e manco mi saluti, ma dai. Di stare un po' meglio, ma mi tieni sveglio molto più dell'NBA. Ora che c'è solo Vodafone a scrivermi di ritornare assieme a lei. Ho visto il tuo fidanzato, sì, quel calciatore mancato che dice che era in Serie A se non si fosse mai rotto il crociato. Pensa che sfigato, dai. Le altre che mi guardano non mi guardano come mi guardi tu. E anche se mi mancano non mi mancano come mi manchi tu. Che non sei le altre, un discorso a parte, mi fai sentire col cuore a testa in giù. Questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19. E giuro non ne posso più di fare a meno di te. E passare da fare tutto a un tutto da rifare. Ma guardaci adesso che siamo diventati, da sconosciuti innamorati, poi da innamorati a sconosciuti. Tipo passi e manco mi saluti, ma dai. Sconosciuti innamorati, innamorati a sconosciuti, da sconosciuti innamorati, innamorati a sconosciuti, da sconosciuti innamorati, innamorati a sconosciuti, da sconosciuti innamorati, innamorati a sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Innamorati a sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Innamorati a sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Innamorati a sconosciuti, da sconosciuti innamorati.